Si chiama Souad Sbai, è presidente dell'associazione delle donne marocchine che vivono nel nostro paese, ma è soprattutto la prima donna araba ad arrivare nel Parlamento italiano. È stata eletta con il Popolo della Libertà e non ha paura di parlare di tolleranza zero nei confronti degli immigrati che commettono reati. Anche noi siamo preoccupati per tutta questa delinquenza che c'è e tutta gente che non ha neanche il permesso di soggiorno viene spedita e poi rientra. L'immigrato onesto che vive in questo paese ha lo stesso sentimento degli italiani. Quali saranno le sue battaglie in Parlamento? Stiamo lavorando su vari punti per l'immigrazione, per l'integrazione della seconda generazione che non si può abbandonare, non può rimanere senza cittadinanza fino a 20 anni, 30 anni. Non deve sentire quel malessere che è successo sia nei banlieue oppure in altre parti, perché le porte dell'estremismo sono lì pronte, aperte. Alcuni esponenti del suo schieramento sono favorevoli a concedere il diritto di voto agli immigrati per le elezioni amministrative. Lei è d'accordo? Ma guardi, io non sono d'accordo, no, non sono d'accordo. Io sono d'accordo quando un immigrato conosca la lingua italiana oppure condivide anche la Costituzione italiana. Non è che deve votare uno che ha i piedi qua e il cervello in Afghanistan. Cioè anche questo bisogna stare attenti. Poi certo il voto viene automatico con la cittadinanza, però io sono più per fare anche un permesso di soggiorno a punti, la prima volta che lo sto dicendo. Come noi tutti quanti abbiamo la patente a punti, anche il permesso di soggiorno a punti. Così si vede l'immigrato per bene, che non ha dei punti tolti da questo permesso e va avanti a una carta di soggiorno automatica. Quello che fa delinquenza si manda via. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma.